interrupt sleep, jump free from hope, cause the big no cut deep. It's 2013, January 1st, yeah. I'm depressed, I don't think things can get any worse. One big desire, I had it, corrupt vision to retire, cause of inaccurate written from liars. I need to change a whole life to rearrange, I was seeing stains everywhere, it's pretty insane. People called it Armageddon, I called it fraud deception. I had heart invested, but now my heart is restless. I feel tackled, no strength, people are baffled, saying the asshole, it's like he's scared of the shadow. I'm sure that's what it looks like when I'm moving so fast, anxiously looking back while running from my past. Pensavo di svegliarmi in un mondo diverso, speravo di lasciarmi dietro un mondo perso. Solo illusioni per la scienza, questo antonimo mi tocca andare domani, propositi buoni. Pensavo di svegliarmi in un mondo diverso, speravo di lasciarmi dietro un mondo perso. Rimando le speranze alla prossima profezia, fra un altro anno, un altro aereo, in fondo cosa vuoi che sia? Je me réveille, 1er janvier 2013, aucun malaise, aucun vendredi 13, aucune apocalypse pour la jeunesse, aucune bombe, aucun mort, tout est à l'aise. Les habits sont toujours sur la chaise, toujours la même pose, toujours les mêmes choses, comme les mêmes causes, toujours les mêmes minutes, comme les mêmes doses, les mêmes habitudes qui nous ont kilos, les mêmes putes qui ne voient jamais la vie en rose. Rien n'a changé vraiment, même dans la prose, pas de métamorphose, de bras, une tête et de jambes. Dis-moi si je me trompe, car j'ai envie de tout rompre. J'attendais et j'attends toujours pour mon compte. Raconte juste une autre nuit, une autre année pour le décompte qui est lente. On se bolit par les articles, les théories et toute cette frénésie. Longue et longue agonie, pas de sortie, aucun point, la ligne, aucun répit. Merde, tout repart comme un putain de lundi, yeah. Pensavo di svegliarmi in un mondo diverso, speravo di lasciarmi dietro un mondo perso. Solo illusioni per la scienza, questo antonimo mi tocca andare domani, propositi buoni. Pensavo di svegliarmi in un mondo diverso, speravo di lasciarmi dietro un mondo perso. Rimando le speranze alla prossima profezia, fra un altro anno, un altro era, in fondo cosa vuoi che sia? Apro gli occhi, niente sembra essere diverso, sogno ancora un cambiamento, sai, mi sento ancora perso. Ricordi agorafobici, tagliati con le forbici, come il calendario dell'anno 2012 deluso. Mi aveva illuso un'aspettativa, ma la vita non è morta, la morte è ancora viva. Apocalisse rimandata, resta in testa i desideri. Ti prego dimmi che non sono come ieri, ho bisogno insoddisfatto di sentirmi giudicato, per il male in cui ho scavato, per il bene che ho predicato, per l'amore che ho dedicato allo sporcarmi le mani, per sentirmi come voi, schifosi umani, per il lusso di volere un futuro migliore, provando gioia guardando il mondo al rallentatore, scansionando ogni secondo, scadendo nel nome, usando le stesse parole per un'altra emozione, yeah. Pensavo di svegliarmi in un mondo diverso, speravo di lasciarmi dietro un mondo perso. Solo illusioni per la scienza, questo antonimo mi tocca andare domani, propositi buoni. Pensavo di svegliarmi in un mondo diverso, speravo di lasciarmi dietro un mondo perso. Rimando le speranze alla prossima profezia, fra un altro anno, un altro era, in fondo cosa vuoi che sia?